2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con la nostra breve replica tra le 13.30 e le 14. Ma come sempre vi ricordo che potete riascoltare la nostra puntata con i nostri sistemi podcast sul nostro sito internet oppure attraverso l'app. Il podcast di 2024 contiene tutte le nostre interviste in versione integrale. Fa sorridere la storia di una startup cinese che permette di noleggiare ombrelli. Sì, avete capito, ombrelli. Allora, la startup si chiama E-Umbrella, all'inglese, e è stata fondata pochi mesi fa, è operativa da circa 3-4 mesi. E tra l'altro ha ricevuto più di 1 milione di euro di finanziamenti, quindi evidentemente c'è chi pensa che anche il noleggio degli ombrelli possa essere un business. Va tenuto conto che in Cina c'è un vero e proprio boom della sharing economy, cioè si noleggia di tutto. Abbiamo parlato recentemente delle biciclette free floating, quindi biciclette che si possono lasciare dove si vuole, si trovano tramite uno smartphone che ti indica la posizione della bicicletta, tu prendi la bicicletta, la puoi mollare e lasciare dove vuoi. Ci sono veramente milioni di biciclette in condivisione e ovviamente il settore dei trasporti, dal car sharing a tutta una serie di altri servizi, è uno dei più coinvolti in questo crescente business della sharing economy. Però effettivamente non avevo mai pensato che si potessero noleggiare anche ombrelli. Allora, questa startup, la E-Umbrella, è operativa in 11 città cinesi e è molto semplice: affittare un ombrello costa circa 5 centesimi di euro per mezz'ora. C'è un deposito di 2,5 euro, adesso abbiamo fatto la traduzione in euro ovviamente, sono disponibili presso rastrelliere che sono tipicamente presenti in stazioni dei treni, luoghi affollati o comunque luoghi dove uno esce e magari è sorpreso da un acquazzone, e quindi è un posto, non a caso, i venditori abusivi anche in Italia di ombrelli dove sono all'uscita delle metropolitane, nelle stazioni, eccetera, eccetera. Allora, per prendere un ombrello si inquadra un QR code che è sul manico dell'ombrello tramite l'applicazione di E-Umbrella. L'applicazione ti fornisce una combinazione proprio per quel particolare ombrello, combinazione che tu inserisci, l'ombrello si sblocca e lo puoi utilizzare. Allora, perché dicevo che fa sorridere la storia che ha fatto un po' il giro del mondo in questi ultimi giorni? Perché il fondatore di questa startup ha dichiarato a un giornale cinese che a circa 3 mesi dal lancio ha perso quasi tutti i 300.000 ombrelli che aveva messo a disposizione dei clienti in queste 11 città. Cioè, se li sono tenuti le persone che li avevano presi, i clienti. Evidentemente poi sbloccare l'ombrello non è proprio così difficile, cioè questo codice probabilmente non cambia o comunque insomma si trova un altro modo, e quindi i clienti si sono tenuti questi ombrelli e valli a trovare. Ovviamente stiamo parlando di ombrelli che sì, hanno tutto un disegno particolare, quindi sono identificabili, ma insomma la Cina è grande, le persone sono tante. Comunque il fondatore dice: a me non interessa tanto, perché secondo noi questo è un business e vogliamo arrivare entro la fine dell'anno a distribuire 30 milioni di ombrelli. Vedremo se questo business avrà successo. Devo dire che, a proposito di finanziatori, parlando anche tra poco incontreremo alcuni giovani startuppari, quindi alcune persone che si occupano di nuove imprese, quindi di startup, e incontrano un sacco di finanziatori o comunque hanno informazioni di finanziamenti. Devo dire che forse in alcuni ambiti e in alcuni fondi ci sono troppi soldi e si finanziano anche cose apparentemente folli. Il tempo poi ci dirà se questa apparenza di follia è confermata oppure invece avevano ragione. Alcune notizie in breve della settimana. Digital News. È stato lanciato da alcuni giorni il progetto Wi-Fi Italia. L'obiettivo è creare un unico sistema di autenticazione per tutte le reti Wi-Fi pubbliche e gratuite italiane. Il portale di riferimento, soprattutto per vedere la mappa di questi hotspot Wi-Fi, è molto semplice, si raggiunge con wifi.italia.it. E tra l'altro questo è un altro modo per sfruttare questo portale che ha avuto una storia molto travagliata, italia.it. Una volta pensato per essere il portale del turismo, adesso ci sono alcuni servizi collegati, tra cui questo. Per utilizzare il servizio è molto, tutto molto facile, molto semplice, è necessario scaricare un'applicazione sul proprio smartphone, registrarsi una volta, in questo modo ogni volta che ci si trova in un'area dove c'è una delle reti Wi-Fi che aderisce al progetto Wi-Fi Italia, lo smartphone aggancia automaticamente questa rete, si autentica, si registra automaticamente, perché noi l'abbiamo fatto una volta e siamo registrati in questa applicazione, noi possiamo sfruttare quella rete Wi-Fi. Insomma, il concetto è abbastanza semplice. C'è chi dice, si domanda, anche io sono tra questi, perché c'è ancora necessità di registrarsi, visto che la legge permette oramai di mettere a disposizione reti Wi-Fi pubbliche anche senza necessità di registrazione. In effetti ci sono alcuni alberghi che hanno capito che serve, insomma, sì, serve per motivi di antiterrorismo, insomma, ci possono essere mille scuse per proporre la registrazione, ma devo dire che trovo molto, molto semplice, molto facile e molto utile il servizio di questi hotel oppure anche di altri ristoranti, bar, che permettono di utilizzare la rete Wi-Fi senza bisogno di registrazione. Dunque, Agicom ha presentato una mappa, Agicom che ha tenuto la relazione, ci ha detto, ha fatto una mappa, ha fatto una fotografia dell'uso della rete internet in Italia, ci ha ribadito che siamo ancora tra gli ultimi posti, soprattutto non tanto per diffusione, anche lì abbiamo ancora qualche problema, ma soprattutto per l'uso scarso che facciamo della rete internet, e questo sicuramente è un problema culturale, un problema delle aziende. Però Agicom ha presentato anche una mappa della reale diffusione e copertura del territorio dei servizi a banda larga in Italia, sia fissi che mobili. Quindi è una fotografia del presente, ovviamente, che verrà aggiornata anche nei prossimi mesi. L'altra mappa che è disponibile per il territorio italiano e soprattutto per vedere quali saranno i progetti di cablatura e copertura da qui al 2020, lo ha proposto Infratel. Quindi se andate sul sito di Infratel, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è la possibilità di trovare un portale, uno va a inserire il proprio comune, la propria via, e magari scopre che al 2020 anche quella via avrà fibra ottica a 100 megabit. Una notizia che arriva da Londra, Vertu, o meglio dalla Gran Bretagna. Vertu, non so quanti di voi ricordano questo produttore di telefonini di lusso, ma veramente di super lusso, che ha sede nel Regno Unito, ed è questa notizia è una risposta a quelli che si domandavano, tra cui io, come fa a resistere sul mercato una società di questo genere. Allora, Vertu è stata messa in liquidazione dopo il fallimento del piano di ricapitalizzazione, un piano di rilancio. Vertu, a proposito di telefonie di lusso, ricordo che produce telefoni d'oro con diamanti, insomma cose veramente costose, completamente tecnologicamente inutili, però se uno vuole avere il telefono con i diamanti, allora produce telefoni che costano, o forse dovremmo dire costavano, perché visto che la società è in liquidazione, dai 10.000 fino ai 40.000, oltre i 40.000 euro. Però evidentemente non c'è un gran mercato. C'era un negozio anche a Milano, nel pieno centro di Milano, vicino a Monte Napoleone, via Monte Napoleone, c'era, o c'è ancora forse, questo negozio, però sicuramente chiuderà molto presto. Un'ultima notizia riguarda Elon Musk, che ha annunciato via Twitter di avere comprato il dominio x.com. Interessante, eh? Era stato lui stesso a registrarlo quando era proprietario di PayPal, una società che poi è stata venduta a eBay, e ora proprio PayPal ha rivenduto, ha concesso e ha rivenduto, non sappiamo a che cifra, potrebbe essere anche una cifra simbolica, questo dominio x.com a Elon Musk. Elon Musk ha detto: per adesso non ho progetti particolari, però sicuramente tra i tanti progetti che passano dalla testa di Elon Musk vedrete che presto x.com avrà una destinazione, sicuramente un sito internet molto molto interessante, insomma, uno dei problemi che le aziende hanno è trovare un adeguato nome a dominio. Se uno dà un nome alla società ma esiste già il dominio registrato, quello è sicuramente un problema. X.com è sicuramente, certamente, una destinazione molto molto pregiata. Adesso il primo dei nostri approfondimenti in questa puntata di 2024, parliamo di sanità digitale. C'è molto fermento in questo settore, in tutto il mondo, prima di tutto perché digitalizzando la sanità si possono ottenere dei benefici in termini di risparmio, di efficienza molto molto molto elevati. Però si può fare prevenzione, si possono salvare vite umane, insomma, digitalizzando, i vantaggi della digitalizzazione esistono in tantissimi settori. Nella sanità ci sono evidenti vantaggi. Ne abbiamo parlato recentemente a 2024, ne riparleremo sicuramente perché questo è un tema molto importante, non solo a livello personale ma anche a livello paese, a livello continentale. Ma questa settimana ne parliamo con due persone che guidano un'azienda, una startup lanciata da poco, che si è inserita proprio in questo settore. Saluto Riccardo Zanini, che è fondatore di Amico, Amico con la Y e la K. Benvenuto a 2024. Grazie. Parliamo di salute, sanità digitale, di che cosa? Allora, parliamo fondamentalmente di quello che era un'esigenza, che oggi un'esigenza che ha le persone, cioè quello di poter gestire la propria storia medica in un unico, diciamo, archivio, in un'unica piattaforma. Noi quindi abbiamo voluto iniziare a ragionare un sistema che permettesse alle persone di avere sempre con sé, quindi su una piattaforma, tutte le proprie informazioni di salute. Quindi che tu sia all'estero, che tu sia ovunque tu ti trovi, hai la possibilità di avere a disposizione queste informazioni. E non succede mai, ma comunque può essere comunque fondamentale in determinate situazioni in caso di bisogno. A volte succede, purtroppo. Purtroppo sì, a volte succede. E insieme a, collegato a questa piattaforma, abbiamo affiancato un wearable device. Lo so che la parola in inglese non piace moltissimo, è un braccialetto fondamentalmente. Quindi è vero che wearable device è una categoria ormai, però un braccialetto si capisce. È un braccialetto indossabile, tra l'altro prodotto in Italia, quindi tutto il nostro prodotto è fatto in Italia. È un braccialetto dotato di tecnologia NFC, quindi non ha bisogno di essere caricato mai, e ti permette di condividere le informazioni che tu hai appunto inserito nel tuo archivio nei momenti di necessità, che sia la babysitter che non si ricorda l'allergia della bambina, piuttosto che la badante che deve ricordare la cura che sta facendo il nonno, o in caso estremo il soccorritore, scansionando appunto il bracciale, quindi avvicinando il telefono semplicemente al bracciale, visualizza i tuoi dati pubblici nell'eventualità appunto che la persona, non essendo stata riconosciuta, può vedere solo i dati pubblici. E poi l'utente che in autonomia decide che quali altre persone possono vedere appunto i dati privati all'interno dell'archivio. In più il braccialetto ti permette inoltre di essere una sorta di, noi lo chiamiamo self-help, anche qua in inglese, ma è un autoaiuto. Sì. Quindi io sono in difficoltà, avvicino il mio telefono al mio bracciale e lui in automatico invia un SMS con la mia posizione di geolocalizzazione. E se ti sbagli? In che senso? C'è un countdown, quindi se hai messo la mano in tasca e non doveva partire, un countdown di 10 secondi, tu blocchi il countdown e vedi solamente i dati. Sì. Facciamo un esempio pratico per capire come funziona. Allora, io, questo prodotto è un prodotto già commerciale. Cioè, è già in commercio, sì. È già in commercio, uno lo può acquistare. Una volta che io lo acquisto, come faccio a caricare i dati e soprattutto come faccio a caricarli nel modo giusto? Ad esempio, io so qual è il mio gruppo sanguigno, ma mica tutti sanno qual è il proprio gruppo sanguigno. Giustamente, infatti hai due opportunità. L'opportunità principale è quella che tu, come dicevi, carichi i dati, quindi hai la possibilità di inserire dei dati di testo, quindi sono allergico al glutine, piuttosto che anche fotografare dei referti ufficiali, quindi dei referti che escono dall'ospedale, dalle analisi del sangue, quindi per il discorso del gruppo sanguigno, alla visita che hai fatto oculistica o altro, li puoi inserire in questo archivio che è diviso in maniera ordinata a seconda di quello che sono le patologie o comunque le esigenze. Tant'è che l'applicazione è gratuita, quindi anche gli ascoltatori che stanno ascoltando adesso possono tranquillamente creare il proprio archivio in maniera totalmente gratuita. Quindi indipendentemente dal braccialetto. Bravissimo, perché il braccialetto è il completamento, diciamo, di questo sistema. Quindi tu, una volta che hai creato il tuo archivio, hai gestito la tua salute. Io ad esempio adesso andiamo al mare, mia figlia in spiaggia, capita mille volte, io mi ricordo da piccolo ci mettevano la classica medaglietta al collo, lei adesso ha il bracciale, quindi ha la possibilità, nell'eventualità avesse la necessità di, si è persa piuttosto che appunto di contattare noi ed è lontana da noi, ha la possibilità di utilizzare uno strumento in maniera digitale, semplice e senza la necessità di ricordarsi di caricarlo. Questo è stato un po' il mood principale col quale noi abbiamo iniziato a costruire la parte di hardware, mentre il software, come dicevo, è un'applicazione gratuita, quindi chiunque la può gestire. Sì. Che cosa ci deve essere sullo smartphone? Tu hai citato l'app, quindi anche nel caso che, in caso di necessità, arrivi una persona sconosciuta, che cosa deve avere sul telefono? Allora, la necessità è che il telefono abbia un lettore NFC, che è un po', per essere proprio in maniera semplice, è quello che viene utilizzato oggi per il pagamento contactless, quindi per il payment utilizzando il telefono. Per l'Apple Pay, ad esempio. Bravissimo, sì. Quindi adesso tieni conto che gli Android li hanno praticamente ormai tutti il lettore NFC, iPhone ce l'ha perché lo usa per Apple Pay, e a breve, ha dichiarato finalmente un mese fa, aprirà anche l'utilizzo dell'NFC anche a applicazioni terze, quindi potremo utilizzarlo anche in quel caso. Ma se per caso la tecnologia in quel momento lì, ripeto, mio padre che ha un telefonino, un Nokia normale, non ha l'NFC, noi abbiamo anche un numero, una centrale operativa attiva 24 ore su 24, quindi sul bracciale c'è un numero di telefono, chiamando questo numero e digitando il codice, in automatico vengono contattati, viene contattato il parente. Quindi abbiamo cercato di ovviare, sì, tecnologia, sì, ma allo stesso tempo anche un po' di analogico. Cioè uno non deve avere un'app specifica? No, per leggere i dati è semplicemente tu avvicini il tuo telefono e vai a visualizzare i dati. Quindi non è necessario che tu abbia scaricato un'applicazione per vedere i miei dati. Questo è l'ulteriore valore, per non andare a limitare il fatto che se non hai l'applicazione non potrebbe funzionare. Certo, quindi diciamo che gli operatori sanitari dovranno pian pianino capire che se vedono quel braccialetto... Guarda, fortunatamente Enrico, stiamo facendo diversi progetti pilota e pian piano purtroppo il dinamismo italiano non è proprio pari a quello che può essere il dinamismo di altre nazioni, però stiamo iniziando a creare dei progetti pilota proprio con questa finalità, il fatto di poter dare uno strumento dinamico per un'esigenza che poi è fondamentale. Allora, a fianco a te c'è Marcello Bonora, che è il CEO, si dice, ma l'amministratore delegato di Amico. Benvenuto. Grazie. Stiamo parlando di una cosa delicata, perché stiamo parlando di dati sanitari. Dico bene? Dici proprio bene. Sì. E allora io potrei immaginarmi, anzi io immagino che i miei dati sanitari, certo, possono essere contenuti in uno strumento che gestisco io, ma che sia l'organizzazione dello Stato a gestire questi dati. Cioè io immagino che un operatore sanitario, quando deve intervenire, abbia uno strumento che è stato il sistema sanitario a offrirgli. Qui invece stiamo parlando, ma il caso vostro e il caso di tantissime altre aziende in giro per il mondo che stanno entrando in questo settore, qui stiamo parlando di dati sanitari che, certo, sotto la mia autorizzazione, ma che gestite voi. In Italia, purtroppo, al momento la sanità digitale non è proprio totalmente al... Zoppica un po'. Diciamo di sì. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di ovviare al problema, prima di tutto avendo una certificazione al garante della privacy per trattare questi dati super sensibili. Secondo, abbiamo visto che tutti i dati in Italia sono frastagliati. Ogni organizzazione, che sia la ASL, che sia la clinica privata, che sia l'ospedale, hanno ognuno la gestione dei vari dati relativi alla persona, anche a livello regionale. Il fatto che la sanità sia regionale è frammentata per 20 regioni. Certo, in effetti ci sono alcune regioni che sono un po' più avanti, come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, ma per il fascicolo sanitario elettronico, l'FSE. Ma nel fascicolo sanitario elettronico, anche se fosse totalmente operativo al momento, che non ci siamo ancora, nella piattaforma Amico ci sono moltissime altre informazioni che comunque non ci sono nel fascicolo sanitario, quali le vaccinazioni, che sono anche un tema di dibattito attuale. Fai conto che noi per andare all'estero abbiamo fatto determinate vaccinazioni e ci hanno ancora dato un fascicoletto di cartone giallo, quindi la strada è un po' lunghina in Italia. Un po' in salita, certo. Però questo, il vostro esempio e quello di altre società che stanno entrando in questo mercato, non rischia di frammentare ancora di più il mercato? No, perché l'idea appunto di innovazione è creare una piattaforma di connessione. Quindi Amico può prendere i dati o visionarli a seconda del database esterno che si prospetta, che sia l'ASL, che sia la clinica privata, e tu in un'unica piattaforma puoi avere tutte le tue informazioni mediche. Solo un esempio: se tu andassi oggi a fare gli esami del sangue nella clinica A, nella clinica B, nella clinica C, nella clinica D, ad oggi ti richiedono di identificarti nel loro portale. Quindi tu avrai, se vai in quattro posti diversi, avrai quattro password. Cioè non dialogano tra l'una con l'altra. No, ognuno cerca di avere il suo tesoretto di informazione senza essere interconnesso, sì, con gli altri. E non so se tu, Riccardo, vuoi rispondere. Questo significa che la vostra piattaforma può attingere ai dati delle varie cliniche che Marcello ha citato. Vuol dire che però i vari database sono accessibili da altre piattaforme? Hai detto giusto. L'obiettivo appunto nostro non è quello di cambiare, tra virgolette, le modalità o le procedure che ha ogni singola attività, che sia la clinica, l'ospedale o d'altro, ma quello finalmente di coinvolgere l'utente in quello che è effettivamente il percorso di queste informazioni. Perché tutti dicono l'informazione dell'ASL, l'informazione dell'ospedale. No, l'informazione è di noi utenti, cioè gli esami miei del sangue sono i miei. Certo. Che poi il database venga gestito dall'ospedale, ben venga, ma perché io non li posso visualizzare? Perché io devo fare, come diceva Marcello, tutta questa procedura in ogni clinica in cui vado per poterlo gestire? Quello che noi infatti stiamo facendo e ci stiamo proponendo proprio alle cliniche, sia più grandi che più piccole, ai laboratori di analisi anche, che per loro è ancora molto più sentita, è quello di dire: tu mantieni il dato. Quindi sei tu proprietario del dato e gestore del dato, ma permetti all'utente, tramite una chiamata, quindi la classica API, quindi una chiamata al tuo database, di poter visualizzare questa informazione. Perché tutto questo processo ad oggi non è mai stato coinvolto l'utente. E quindi l'FSI, ad esempio, ti verrà risposto: volendo puoi accedere. Tu vai all'ASL, ti fai dare la password e tu accedi. In Lombardia ci accede il 3.5% delle persone, praticamente nessuno. Sì. Ma per quale motivo? Perché, sempre in inglese, l'esperienza utente, la user experience, oggi purtroppo è frammentata, come diceva Marcello. Quindi quello che noi vogliamo fare è veramente ambizioso, tant'è che quando parliamo con gli investitori italiani a volte è complicato fargli capire la visione che abbiamo, perché è una visione davvero, anche qui in inglese, disruptive, cioè di cambiamento. Sì. Ma se non si parte, secondo noi, da quello che è l'utente, quindi dalla persona, dal fruitore principale, e lo si coinvolge in questo percorso, faremo sempre fatica a far sì che questa sanità diventi digitale davvero. Senti, a proposito di innovazione dirompente, che è una buona traduzione, mi piace di più che disruptive. Esatto. A proposito di innovazione dirompente, il vostro obiettivo quindi è dire: noi offriamo una piattaforma facile da usare, l'avete chiamata Amico, che è un nome insomma semplice, che diventi il punto di accesso e di gestione dei dati sanitari. Però a questo punto ti faccio la domanda che potrebbe fare l'investitore. Ma qui abbiamo da un lato Apple, da un lato Google, e più o meno abbiamo finito perché sono sostanzialmente loro due, che si sono infilati nelle nostre tasche con gli smartphone e che pian pianino, non è un caso che entrambi abbiano una piattaforma di gestione dei dati sanitari. Certo. È il rischio, che è un vero rischio anche per le nazioni, perché stiamo cedendo dati a entità, bravissimo, che stanno tra l'altro al di là dell'oceano, però la gara è abbastanza difficile. Sicuramente, nel senso che la gara non la chiamerei gara, nel senso che mi rendo conto che è come giocare a calcetto contro Barcellona, io con la mia squadra di amici, forse un gol lo faremo ma non vinceremo mai la partita, però credo che queste multinazionali ragionino sempre, come hai detto giustamente tu, sui dati. Quello che facciamo noi è ragionare sull'utente, tant'è che l'obiettivo non è solo quello di allocare le informazioni in un archivio, ma è quello poi di suggerirti, quindi di starti vicino, di accompagnarti per far sì che tu pensi alla tua salute non solo quando ti ammali, come capita in Italia a differenza di altri stati, ma prima che tu ti ammali. Quindi andare a fare un lavoro di prevenzione, mentre te lo dico mi rendo conto che è una cosa ambiziosa, indubbiamente, però insomma ci hanno sempre detto di sognare in grande, adesso dobbiamo fare un passo indietro. Sono d'accordo, ma Marcello vuoi aggiungere qualcosa? No, ti faccio solo un esempio. Avendo i dati della tua età, sei maschio, superiore a 50 anni, la piattaforma... Che non sono io però. Neanche io. No, quasi. Solo per fare un esempio, la piattaforma ti può suggerire di fare per esempio l'esame per il controllo della prostata. Sì, okay? quindi prevenzione. Prevenzione alla base. Stiamo dialogando con il ministero, sempre anche lì con tempi ovviamente comunque non semplici, proprio per questo. Cioè, quello che noi veramente vogliamo fare non è sostituire nulla, ma è partire al contrario. Sì. Quindi non calare dall'alto nulla, ma partire con l'esigenza che ha l'utente tutti i giorni. Sentite, mi dite qualche cosa che si potrebbe fare in futuro, cioè avendo a disposizione così tanti dati, soprattutto dati aggregati della popolazione. Che cosa si potrebbe fare? Beh, solo per esempio l'analisi dell'aderenza al farmaco in Italia. Cioè, spiega meglio. Noi per esempio abbiamo una parte relativa alla nostra piattaforma dove tu puoi inserire, in base al codice barre del farmaco, la tipologia di farmaco e la quantità di assunzione che possa avere. Quante volte ti capita in casa di comprare un farmaco che ce l'avevi già e non sapevi di averlo? Sì, certo. Lo spreco dei farmaci in Italia raggiunge dal 10 al 15% dei costi a livello italiano. Quindi un monitoraggio da parte non solo del ministero ma anche personale potrebbe cambiare questo modo di agire e di allocare i farmaci in Italia. Certo, e che cos'altro si potrebbe fare, Riccardo? Sempre a proposito di analisi dei dati per intanto fare appunto un monitoraggio di quello che sta succedendo, che non è sempre facile, o perché le statistiche vengono fatte, ma quante volte ascoltando un giornale radio noi citiamo i dati degli istituti di ricerca che risalgono a 1 o 2 anni prima e magari le statistiche si potrebbero fare anche in tempo più reale, no? Però anche in forma preventiva che cosa si potrebbe fare? Che cosa vi siete immaginati? Ti faccio l'esempio pratico di un progetto che stiamo facendo con le scuole. Mm-hmm. Oggi, come dicevi, il vaccino è uno diciamo all'ordine del giorno come argomento, legato poi alla scuola, quindi non ti vaccini, non puoi andare a scuola o altro. Sì. Quindi anche solo capire oggi quanti bambini sono stati vaccinati ad oggi in tutta Italia, in quali regioni c'è più aderenza rispetto a quante regioni c'è meno aderenza. Quindi per in questo caso il ministero, ma questa poi ripicciolita, potrebbe essere anche per la clinica che ha 10.000 esami all'anno e su questi 10.000 esami ha la possibilità di poter avere un feedback dall'utente che ha fatto l'esame perché mantiene un contatto tramite la piattaforma e allo stesso tempo può calibrare quello che possono essere le esigenze, nel caso del ministero sui vaccini, in base alle regioni e alla risposta che può esserci. Quello che manca oggi in Italia, secondo noi, è il coinvolgere l'ultimo gradino, cioè l'utente finale. Sì, certo. Perché se lo coinvolgi e lo dicono statistiche, quindi sono predisposti all'utilizzo della sanità digitale l'utente finale. Il problema è che non ha uno strumento facile da utilizzare. Noi con la piattaforma Amico dialoghiamo con patologici cronici che hanno dei seri problemi, quindi ne sentono l'esigenza fondamentale, ma anche con persone sane che hanno però l'ordine, dicono: sai, dove hai l'ultimo esame che hai fatto? Non so, se hai fatto un'antitetanica. Nessuno di noi si ricorda quando ha fatto l'ultima. Lo chiedi all'ASL, non se lo ricorda neanche loro perché hanno il librettino. Quindi pian piano il processo è semplice se lo strumento dato all'utente finale è semplice. Se invece è complicato perché lo cali dall'alto, rimarremo sempre fermi. Sì. Il braccialetto, che cos'altro ci si potrebbe fare? Anche noi ci siamo posti questa domanda qualche mese fa e ci siamo accorti che effettivamente l'utilizzo della tecnologia NFC è molto diffusa. Tieni presente che noi a entrare oggi da te abbiamo usato un badge ed è NFC. Sì, sì. Quindi controllo accessi. Infatti abbiamo vinto diversi premi. Stiamo facendo un progetto con una grossa multinazionale dove l'avranno al polso perché per la sicurezza personale, quindi in caso di emergenza io so chi sei, so che come ti chiami e so che dati ho la possibilità di poter comunicare al soccorritore. E in più lo uso per accedere in azienda. Abbiamo fatto poi un'altra partnership, tra l'altro molto, molto importante, che è sul payment. Mobile payment, piuttosto che il pagamento tramite degli oggetti indossabili. Sì, sì. Quindi abbiamo fatto una partnership con una multinazionale, penso che si possa dire perché è pubblico, quindi con Obertur, che produce i chip delle carte di credito. E insieme quindi al tag del pagamento, il tag della sanità per vedere i tuoi dati, hai anche la possibilità di avere il tag del pagamento. Questo cosa fa? Apre diversi cluster e nuovi potenziali clienti anche per eventualmente la banca in questo caso. Perché tu provi a immaginare mia figlia a 9 anni, io la carta di credito non gliela do in mano, è difficile, cioè non la riescono ad accettare. Contanti, Quello che noi, io le ho messo al polso un braccialetto, lei ha un limite di 5 euro al giorno, perché ha 9 anni, quindi per il momento 5 euro sono sufficienti, e lei arriva ai qualsiasi bar ovunque si trovi e può pagare. Quindi la versatilità... Potrebbe, non lo può fare oggi perché non esiste. No, no, quello che le ho dato io sì, perché abbiamo già fatto un progetto in Belgio ed è già attivo. Quindi... Ne abbiamo due in Italia di queste. Sì. Cioè due... Due esemplari di questo progetto che abbiamo fatto in Belgio. Stiamo dialogando con molte banche. E sì, vediamo. Una cosa che non vi ho chiesto, Marcello, come carico i dati sul braccialetto, quindi anche ad esempio i dati di pagamento? Allora, i dati di pagamento sono collegati a una carta di credito. Sì, okay? No, però dico fisicamente, come lì, visto che il braccialetto è NFC passivo, com'è che carico il braccialetto? Cioè, come fanno questi sistemi, anche diciamo il database sanitario, a sapere che lì sul braccialetto? Allora, innanzitutto non è sul braccialetto. Perché per la legge sulla privacy non può essere sul braccialetto. I dati sono storati in un server fisico nel territorio italiano. Okay, il braccialetto, quindi il braccialetto serve solo per identificarti. È un'identità digitale e ti dà la possibilità di operare per fare alcuni servizi come il controllo accessi, il self-help su cui che nominava prima Riccardo e adesso il pagamento. Per certo. Dirti anche solo la possibilità di collegare ticket restaurant, di... per esempio, vai in spiaggia, non hai voglia di portarti il portafoglio. Sì, sì, il braccialetto ti può servire per identificare nel caso stessi male e fare dei pagamenti. Ti faccio un'altra domanda sull'uso dei dati. Che cosa ci potete fare voi con questi dati? Cioè, quando io carico tutta una serie di dati sanitari, certo, in questo archivio, dopo io potrei domandarmi, ma questi di Amico... Che cosa ci fanno? Allora, noi non ci possiamo fare assolutamente nulla, tecnicamente a livello individuale. Nessuno degli operatori della nostra società o di tutti i partner che lavorano con noi ha accesso fisico ai dati che tu inserisci, perché sono dati super sensibili. Sono encrypted in entrata, in uscita, una serie di regole che ci ha imposto il garante della privacy. Noi quello che possiamo fare, possiamo, come dicevi tu prima, agire su questi dati a livello aggregato e quindi avere dei trend e delle informazioni tali da poter darli al Ministero dell'Istruzione per i bambini, al Ministero della Sanità per, come ti dicevo prima, quello che è stato richiesto sull'aderenza al farmaco. Certo. Senti, visto che tu ti occupi di soldi, di denari, quanti soldi avete già ricevuto dai venture capital e quanti ne state cercando? Allora, per ora abbiamo ricevuto dai venture circa 600.000 euro. E poi abbiamo fatto insomma un'operazione grazie al medio credito italiano, sai, le startup possono chiedere fino all'80% a fondo perduto di altri 300.000 euro. Però adesso per scalare, giustamente, stiamo cercando un round di investimento, chiamiamolo il round A in Italia, che può essere di 1 milione, 1 milione e mezzo, quando all'estero potrebbe essere di 10. Solo per darti un'idea, certo. posso darti qualche idea di alcune società comparabili all'estero, tanto sì, per dirti sì, sì. Quanto l'amico, quindi la SPAL, sta giocando col Barcellona. Allora, prima di tutto, secondo il Politecnico, un investimento medio in una società che fa wearable device in Italia è 500.000 euro, all'estero è 5 milioni. Solo per dirti, il payment, che è una parte, una divisione, payment wearable, in Australia una società, una startup ha preso 1.4 milioni da appena nata. La società che in UK che lavora solo sulla piattaforma ha preso 8 milioni di sterline e un'altra in Polonia circa 46 milioni di euro. Quindi capisci che stiamo facendo il possibile con i fondi che abbiamo. A questo punto uno potrebbe domandare, non so se vuoi rispondere tu o Riccardo, che cosa ci state a fare in Italia? Qualche mese fa il vostro giornale ha scritto un articolo su di noi, che stavamo guardandoci appunto all'esterno dell'Italia, e non ti nascondo che sia in UK ma anche in Stati Uniti e anche in Asia, perché Marcello ha fatto il viaggio in Giappone per l'Innovation Day, io sono stato in Cina in contemporanea, abbiamo tra l'altro siamo stati premiati e siamo passati alle finali che verranno fatte a ottobre a Pechino, e non ti nascondo che da patriota italiano come sono sempre voluto essere, fa male dover ammettere che o esci o muori. Perché ormai purtroppo non è questo. Proprio così, no, c'è qualcuno che. No. Però se li conti sulle dita di una mano, sì, le startup italiane che davvero hanno fatto dei round importanti e sono riuscite a crescere nella maniera giusta. Noi, fortunatamente, con i fondi che abbiamo oggi all'interno, e quello principale è Embed Capital, ed è un family office fondamentalmente, quindi è un ragazzo giovane che vede molto lontano, e grazie a lui siamo riusciti comunque a nascere e ad esserci ancora. Però non può fare più di tanto. Quindi quello che oggi noi stiamo facendo, ti ripeto, purtroppo, e lo dico più di una volta, è dover guardare fuori. Nel senso che in Italia abbiamo aperto diversi dialoghi, ma insomma, non è non viene visto l'investimento come viene percepito all'esterno dell'Italia. Cioè in Italia vuoi un investimento che, tra virgolette, dopo domani o comunque a breve ti dia una revenue seria. All'estero, diciamo, sposano di più progetti ambiziosi che abbiano comunque una visione più a lungo termine e non solo a breve termine. Cioè, questo vuol dire, potrebbe voler dire che potreste trovare soldi provenienti dall'estero ma rimanere operativi in Italia. Sì, questo è quello che vorremmo fare. Ovviamente, come ci hanno chiesto i fondi italiani di avere comunque una realtà in Italia perché hanno investito, anche il fondo estero ci chiederà ovviamente di avere una realtà. Però non ti nascondo che l'avere un investitore estero è sì finanza nuova, ma anche possibilità di penetrare in un nuovo mercato. Perché noi molte volte ci fermiamo in Italia e il mercato italiano è forse più complicato in tanti settori. Quando esci dall'Italia invece magari ti accorgi che altre nazioni sono molto più smart e più dinamiche nel recepire innovazione. Sì, sì, c'è anche chi mi ha risposto su questo punto dicendo: ce l'abbiamo fatta in Italia, quando siamo andati all'estero ci sembrava di giocare con le bambole perché era facilissimo. È proprio così. Però quindi è una buona palestra, no? È una buona palestra, però a un certo punto bisogna andare in campo e giocare, quindi certo. Quindi stiamo dialogando con l'Asia, stiamo discutendo con gli Stati Uniti e anche ovviamente la parte degli UK, che è molto più semplice trovare finanziamenti. Bene, in bocca al lupo. Viva la lupa, come si suol dire. Perfetto. Grazie. A presto. Grazie. Grazie. Ciao. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23. Domenica in replica tra le 13.30 e le 14. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete raggiungermi anche su Facebook, su Twitter. E come sempre vi ricordo la nostra edizione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di, potremmo dire, servizi in outsourcing per le aziende, ma detto così è troppo banale. Beh, se voi volete trovare uno specialista per risolvere un problema, magari anche un problema complicato, oggi grazie ad internet c'è la possibilità di trovarlo praticamente ovunque e c'è la possibilità di risolvere oppure scoprire che da un problema non c'è solo la soluzione di quel preciso, determinato e specifico problema, ma possono nascere altre soluzioni, altre idee collaterali, oppure uno pensava di risolvere il problema in un certo modo e interfacciandosi e mettendo su internet questa esigenza si scoprono altre soluzioni magari impensate o impensabili ad un primo momento. Si chiama l'approccio a questo tipo di soluzione, si può chiamare anche crowdsourcing. Che cos'è e come funziona e come trasformare in business questo fenomeno nato sulla rete internet? Ne parliamo con Luca Prati, che è fondatore nonché amministratore delegato di Matesia. Benvenuto a 2024. Grazie. Matesia, lo diciamo subito, scritto col TH, perché tutto proviene dalla parola inglese math, matematica, giusto? Giusto. Perché vi occupate di matematica in un certo modo. Esattamente, ci occupiamo di matematica applicata. Che cosa fate e perché, io ho detto, questa settimana ci occupiamo di crowdsourcing. Intanto definiamo crowdsourcing nel vostro mondo. Allora, crowdsourcing è una parola abbastanza ampia che abbraccia tutto quelli che sono i nuovi metodi di collaborazione, di problem solving in maniera collaborativa, soprattutto orientato al mondo delle aziende. È diverso dall'open source, dove si lavora in maniera collaborativa aperta, a titolo gratuito. Nel crowdsourcing, diciamo un modello appunto adottato spesso dalle aziende per individuare una competenza, individuare una prestazione consulenziale all'esterno della propria azienda, qualora non la si abbia al proprio interno. Sì. Posso dire che in internet il crowdsourcing è una cosa vecchia. Cioè, si usa già da 20, forse più anni. Sì, il crowdsourcing è nato ormai tantissimi anni fa. Adesso sta esplodendo in maniera importante e incomincia a affacciarsi anche sulla realtà italiana in maniera di nuovo importante. Certo, e negli ultimi anni sono nate delle vere e proprie aziende. Potremmo dire, sempre per chiarire il concetto di crowdsourcing, che Uno dei primi esempi, e forse l'esempio di più grande successo, è Wikipedia, che è nata grazie alla collaborazione ed è ancora oggi vive grazie alla collaborazione, però di tanti milioni di persone in giro per il mondo. Però negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti. Ad esempio, voi vi occupate di crowdsourcing in che modo e che cosa c'entra la matematica applicata? Noi ci siamo proprio specializzati nel mondo della matematica applicata perché abbiamo colto questa fortissima esigenza da parte delle aziende di dotarsi di strumenti sempre più avanzati per risolvere problemi di ottimizzazione, non solo di prodotto ma anche di processo. Parliamo di matematica in generale come strumento. In realtà quando si evoca la matematica nel mondo applicato si evoca tipicamente problemi di ingegneria. In realtà la matematica è appunto uno strumento che consente di simulare, ottimizzare, prevedere, macinare un enorme numero di dati e estrarre informazioni preziose. Certo, anche per cose semplici. Assolutamente sì. Pensiamo al mondo, chiaramente nel mondo della ricerca e dello sviluppo esistono tutta una serie di problematiche tipo simulazione della robustezza di un prodotto o la forma, l'aerodinamica di un prodotto, ma se ci spostiamo in altre aree di un'azienda tipicamente troviamo altre problematiche che possono essere risolte con la matematica. Pensiamo al mondo del marketing, quindi tutto quello che è l'analisi dei dati relativi all'identificazione di un cliente, del suo comportamento, alla predizione di quello che lui desidera in termini di bisogno, insomma, certo, da soddisfare. Diciamo che molte delle cose che vengono fatte nelle aziende si basano sulla matematica, poi a volte mediata da alcuni servizi o alcuni software che già sono a disposizione, però dietro c'è matematica. Quello che voi fate è mettere in contatto gente esperta da tutto il mondo con aziende, anche piccole aziende locali italiane, e qui cominciano a cambiare un po' le cose. Facciamo degli esempi, partiamo dagli esempi e poi magari torniamo a parlare del vostro lavoro, di come lo fate e di come è nata questa azienda. Sì, la matematica di cui stiamo parlando sono strumenti avanzati, a volte complicati. Noi cerchiamo proprio di mettere in contatto coloro che conoscono molto bene questi strumenti, quindi centri di ricerca, centri accademici, professori, piuttosto che persone nell'ambito della consulenza professionale, con aziende che magari non hanno queste competenze al loro interno, quindi effettivamente sia piccole aziende ma anche grandi aziende che magari non hanno una specificità particolare. Esempi potrebbero essere, nel caso di una grande azienda, ad esempio Nolan, produttrice di caschi, che si è rivolta a noi per sviluppare un nuovo tool per ottimizzare, dopo un stravolgimento del loro sistema di logistica, la spedizione dei loro caschi in tutta Europa in tempi rapidi e allo stesso tempo minimizzando il numero di spedizioni. Oppure potrebbe essere un altro esempio molto concreto, quello di questa volta un esempio di data mining, di analisi di big data. Quella di un ospedale italiano che ci ha chiesto di migliorare la prenotazione di quella che è la risorsa più importante per loro, la sala operatoria, basandosi sullo storico dell'utilizzo di questa sala operatoria. Quindi, dato il dottore e il tipo di intervento, volevano fare un modello di previsione per la prenotazione dei successivi interventi nella maniera ottimale, più certo, ottimale possibile. Con competenze che mancavano all'interno dell'ospedale che voi avete trovato. Parliamo di questa piattaforma. Cioè, normalmente le aziende, quando hanno un problema, magari io faccio, sono una piccola azienda che fa manifatturiera, devo fare un calcolo sulla resistenza di un materiale, quindi anche cose che possono sembrare molto, molto semplici, e magari lo faccio con consulenti, con esperti che sono o nella mia città o nella mia zona, comunque abbastanza vicini. Che cosa cambia con una piattaforma di questo genere? La piattaforma, che ricordiamo, è su internet. Diciamo che crea una serie di vantaggi secondo noi molto importanti. Il primo è quello di poter accedere a un bacino di consulenti esperti in maniera che sarebbe difficilmente raggiungibile, diciamo, con i canali tradizionali. All'interno della piattaforma oggi ci sono migliaia di specialisti che sono stati classificati per le loro competenze, sono stati raccolti proprio in base al loro livello di skill, di esperienza, di competenza. Di sì. Competenza. Sì. Noi ci teniamo a avere una competenza molto molto qualificata ed elevata. La nostra piattaforma è basata proprio sulla reputation di questi, certo, di questi, un po' più, certo, meccanismi di reputation. Voi mettete in contatto l'azienda con l'esperto. Se sbagliate lì, esatto, siete finiti, cioè dovete garantire che quell'esperto sia veramente esperto nella materia in cui lui si presenta. Esatto, e questo lo facciamo appunto con un meccanismo di reputation, per cui lo stesso esperto non è incentivato a proseguire se riceve dei feedback negativi oppure se poi i progetti non vengono risolti in maniera corretta. Quindi primo vantaggio, io sono una piccola azienda, ma certo anche grande azienda, ma magari la grande azienda ha più capacità di andare sul mercato a cercare esperti anche al di là dei confini nazionali. Se io sono una piccola azienda italiana, magari trovo un esperto dall'altra parte del mondo proprio esattamente per quel problema che io sto affrontando. È capitato anche sulla nostra piattaforma che ci fossero delle persone che avevano già affrontato quel problema, magari per altre aziende, oppure per settori, diciamo, analoghi, e che potevano replicare esattamente il modello che avevano già impiegato su un contesto completamente diverso. Certo, questo capita spesso nel mondo della matematica, perché la matematica è proprio un linguaggio che permette di estrarre e di rappresentare la realtà in maniera a un livello molto più elevato. Sì, quindi primo vantaggio, insomma, facile da comprendere. Esatto. Il secondo è sicuramente un beneficio economico, perché io posso in maniera rapida confrontare delle proposte, diciamo, dei preventivi e individuare quella che può essere l'offerta più ragionevole per il budget che ho a disposizione. Il terzo vantaggio è sicuramente in termini di velocità. Oggi la piattaforma garantisce che una volta inserito la descrizione del progetto, dell'esigenza che io devo andare a risolvere, nel giro di 2-3 settimane può raccogliere tutta una serie di preventivi e quindi partire poi in maniera, da un punto di vista operativo, in maniera molto molto veloce. Certo, il vostro modello di business come funziona? È molto semplice. Noi non chiediamo nessun compenso al lato della registrazione dell'azienda, così come non lo chiediamo a quelli che noi chiamiamo i cervelloni, i brainies, che sono i consulenti che sono iscritti alla piattaforma. Chiediamo un compenso nel momento in cui noi generiamo valore per entrambi, ovvero nel momento in cui viene fatto incontrare un'azienda con un consulente. Nel momento in cui questo avviene, la piattaforma percepisce una percentuale di quello che è il budget del progetto che è stato discusso. Questo tipo di approccio è un approccio che, dal tuo punto di vista, è ormai conosciuto in Italia, o stiamo parlando ancora di una piccola nicchia di aziende che hanno capito che esiste questa opportunità e quindi io sono una piccola, adesso io insisto sulle piccole aziende pensando che le medie e le grandi abbiano degli strumenti, magari sono ottimista, però sono una piccola media azienda italiana e posso utilizzare competenze specifiche per un problema molto preciso dall'altra parte del mondo, oppure anche scopro che è in Italia, ma magari io mi rivolgevo alla mia provincia, alla mia regione, e scopro che a due regioni di distanza c'è un esperto molto bravo. Ecco, qual è il punto dal punto di vista della consapevolezza, che punto siamo? Allora, in Italia c'è ancora un approccio un po' timido, ma diciamo che il resto del mondo questa cosa sta esplodendo in maniera significativa. Ci sono poi differenze tra settore e settore industriale. Nel mondo, ad esempio, creativo, oggi credo che anche in Italia ormai nessuno vada a disegnarsi un logo da solo, mette un progetto su Best Creativity piuttosto che su 99 Design. Sono piattaforme che consentono di raccogliere magari centinaia di proposte a fronte di un investimento di 200 euro. Così se uno si deve disegnare un biglietto da visita, una brochure, se si deve realizzare un video, oggi esiste Zuppa, è una realtà tutta italiana, una piattaforma che però è internazionale, molto importante, in cui stanno giocando anche diverse aziende per realizzare degli spot, dei video pubblicitari o delle micro presentazioni. Se ci spostiamo di settore, ad esempio nell'ambito digital, creazione di siti web, tecnologie, diciamo, di programmazione, c'è una piattaforma molto molto affermata che è Freelancer, che conta 25 milioni di programmatori a disposizione di qualunque azienda che ha bisogno di svilupparsi magari un'app o un sito. Quindi io vado sulla piattaforma, faccio una proposta, così come sulla vostra piattaforma, e trovo molto facilmente, molto probabilmente, l'esperto che me la realizza. Esatto. E si ottengono tipicamente centinaia di proposte, poi uno sceglie con chi vuole collaborare. Diciamo nei settori più generali del marketing, della ricerca di personale, ad esempio di una segretaria, esistono piattaforme come Upwork che consentono anche loro di poter fruire di servizi che forniscono dei servizi ad altissimo valore per questo tipo di esigenze. Di esigenze. Ovviamente una piattaforma di questo genere crea maggiore concorrenza, quindi taglia fuori quei consulenti, quegli esperti che si erano ricavati una nicchia di mercato sul territorio e si basano ancora oggi, si basavano sulla vicinanza ma anche sul buon rapporto con le aziende. Però d'altro canto i veri esperti anche sul territorio italiano si possono rivolgere ad aziende di tutto il mondo, cioè vale quello che vale per le aziende italiane che si possono rivolgere a esperti di tutto il mondo, vale anche per gli esperti italiani che hanno un mercato che si allarga. Sicuramente, per noi noi le vediamo come un'opportunità, perché se uno è veramente specializzato, diciamo che lavora bene, ha la possibilità di aprire la sua offerta su mercati molto molto più importanti, perché le aziende ovviamente arrivano da tutto il mondo. Allo stesso tempo diciamo che questo tipo di strumenti rendono più democratico l'accesso anche per un giovane che invece vuole affacciarsi al mondo del lavoro e può confrontarsi in maniera diretta giocandosela. Cioè è capitato ad esempio sulla nostra piattaforma Siemens avesse chiesto di giocare un progetto importante per un tool di ottimizzazione di un magazzino, è stato vinto da un libero professionista polacco perché aveva già realizzato un lavoro simile per una falegnameria e quindi è riuscito a replicare il modello per invece un sistema di torni che stava costruendo. Diciamo che senza internet e senza una piattaforma del genere probabilmente quel giovane polacco avrebbe avuto qualche difficoltà. Sicuramente. Mm. I vostri clienti sono aziende piccole, medie, grandi? Perché prima ci ha fatto l'esempio di un ospedale della Nolan, che non sono proprio piccole aziende. No, potrei farvi anche l'esempio di una piccola azienda invece che si occupa di sicurezza alimentare, che sicurezza alimentare significa predire in qualche maniera la data di scadenza dell'alimento. Questo viene fatto applicando una carica batterica all'alimento e andando a misurarla nel tempo, verificando di quanto cresce. In base al tasso di crescita poi si può fare una previsione, raggiunte determinate soglie l'alimento non è più commestibile. Ecco, questa piccola azienda si è rivolta a noi per sviluppare un algoritmo che migliorasse la previsione dell'accuratezza. Era una piccola azienda, non aveva diciamo le competenze proprio interno per sviluppare questo tipo di analisi matematica avanzata. Diciamo che il beneficio molto interessante per questa azienda è stato quello poi di verificare che il consulente non solo è riuscito a fornire loro un algoritmo molto più accurato, ma si è accorto che anche il numero di campionamenti che facevano era eccessivo e quindi è riuscito a abbattere tantissimo i costi di questa azienda. Senti, i vostri esperti sono di questi 3.000, sono più italiani o più stranieri? Noi siamo nati in Italia, quindi abbiamo diffuso sicuramente più il messaggio in Italia. Oggi siamo circa 50% italiani, 50% invece stranieri. C'è qualcuno che vi fa concorrenza? Cioè esiste una piattaforma di crowdsourcing specializzata nella matematica come la vostra? Allora, ci sono altre piattaforme che si occupano di consulenza specialistica, diciamo cervelloni ad alto livello, però direi non così verticalizzate come siamo noi nell'ambito della matematica applicata, della data science. Sono magari più spostati nell'ambito chimico, fisico, farmaceutico, affrontano problemi di natura sempre industriale, ma magari su settori leggermente diversi. Molto bene Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo visto che siete ancora nella fase di startup, dico bene? Esatto, sì, stiamo partendo rapidamente. A presto e buon lavoro. Grazie, grazie dell'ospitalità. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Tra poco ci sono le notizie di GR24, noi andiamo in replica domenica, come sempre tra le 13.30 e le 14, ma vi ricordo come sempre la nostra edizione podcast. Tutte le nostre interviste in versione integrale solo nella versione podcast di 2024. È molto facile trovarla, riascoltare il nostro programma, come tutti i programmi di Radio 24, andate sul nostro sito internet. Da lì cercate il programma e poi potete riascoltarlo, oppure in modo ancora più semplice, ancora più facile, scaricate la nostra app, la nostra applicazione su smartphone Android o iOS e potete riascoltare tutti i nostri programmi, ovviamente anche 2024. Se volete utilizzare il podcast, che è una nuova modalità per ascoltare programmi radiofonici, ma non solo programmi radiofonici, anche audio proveniente da diverse altre fonti, anche di piccoli produttori, magari di super nicchia, ci sono tante applicazioni che permettono la gestione del podcast. È molto semplice, molto facile, si scopre veramente un mondo. Certo, alcuni ci possono fare anche un po' di concorrenza, ma noi siamo aperti al mercato e siamo fiduciosi che i nostri contenuti siano interessanti. Bene, ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook e su Twitter. L'augurio di una buona serata o una buona notte. Appuntamento alla prossima settimana.